perché c'è una telefonata che voleva, una telefonata in diretta che voleva farti delle domande, quindi siccome l'ho messa in, non so se ci sei. Sì, pronto. Eccoci. Ci sono. Tu senti il telefono? Sì, ok, prego. Bene, e innanzitutto volevo ringraziare Laurent per lo sforzo che si intuisce, si capisce, insomma, ascoltando, sta facendo nel parlare italiano, e devo dire ci riesce molto meglio, parlo di me, che se dovessi parlare in inglese, penso di molti altri, quindi grazie di questa, di questo tuo impegno. E poi volevo anche sottolineare la precisazione che hai fatto sul ruolo di Obama, sul, diciamo, più che su lui personalmente, almeno questo è quello che io penso, su proprio la scelta di fase fatta in quel momento critico dal capitalismo, cioè una fase in cui il capitalismo americano doveva anche recuperare un po' di immagine, un po' di faccia, e quindi Obama è stata proprio la combinazione più appropriata, più opportuna, insomma. Quindi è importante quello, credo, che lui ha sottolineato sul significato della elezione di Obama e anche sulle sue riforme, insomma, soprattutto quella della sanità, al di là magari delle sue buone intenzioni personali, però questi sono i fatti. E detto questo, gli volevo porre due domande specifiche. Una riguarda il TTIP, il trattato che è in discussione con l'Unione Europea per il libero scambio, per l'omologazione di tutta una serie di normative sull'accesso dei prodotti, insomma, penso che lui conosca sicuramente la materia, che qui è, a livello perlomeno di opinione pubblica, è piuttosto mal visto, così questa è la sensazione e questi sono anche i pochi riscontri che riusciamo ad avere. E questo non solo in Italia, ma penso a livello europeo, perché è un trattato che si va negoziando abbastanza segretamente tra l'Unione Europea come vertice e il governo degli Stati Uniti. Questa è una domanda, quindi la domanda è se anche negli Stati Uniti questo trattato si è conosciuto, se sono conosciute queste trattative, e se sono anche lì mal viste, se capiscono quali insidie nascondono dal punto di vista delle convenienze del capitale. La seconda domanda riguarda più da vicino i movimenti Occupy, e cioè se lui in questa esperienza ravvisa dei limiti politici, e in particolare quali limiti politici ci sono, alla luce soprattutto magari di una timida ripresa, potremmo dire, di alcune mobilitazioni, alcune lotte che vengono specialmente dal settore operaio. Prima si parlava della Chrysler, insomma, degli scioperi nel settore, eccetera. Ecco, queste erano le due domande specifiche. Lo ringrazio e vi saluto a tutti. Grazie a te. Ma ti ringrazio anche io per le tue domande. Per la prima domanda sul trattato del libero commercio con Europa, per me tutti i trattati di questo genere da 25 anni, a partire della fase di Clinton nella Casa Bianca, sono il cosiddetto NAFTA, North American Free Trade Agreement, tra Canada, Messico e gli Stati Uniti. Finora sono sempre tentativa di una razionalizzazione del capitale, e non è per caso che la discussione prima di questi accordi sono sempre di segreti, parlano molto di includere cose per il lavoro, cose per l'ambiente naturale, ma sappiamo molto bene che è un totale menzogna. Non sono sicuro, perché non hanno ancora rivelato i punti reali di questo ultimo trattato, ma mi sembra che non sarà diverso del passato. E una cosa importante per capire il ruolo degli Stati Uniti in tutto questo è che a partire dagli anni di Clinton, negli anni 90, era sempre una maggioranza del Partito Repubblicano con una minoranza del Partito Democratico che ha appoggiato questi trattati. Naturalmente la minoranza democratica opposta in molte case lo facevo perché sapevano molto bene che il loro voto non aveva nessuna importanza. Era un'occasione per fare belli discorsi, ma nel fondo, come voi sapete tutto, il Congresso americano, nel Congresso americano attuale, non c'è nessuno che non è perlomeno un milionario, certo, se non qualcuno più ricco. Allora, per me, questo trattato è in una continuità perfetta con tutti i trattati del libero commercio di prima. Ci sarà senza dubbio una opposizione vocale della parte dei sindacati, come c'è stato sempre da 25 anni, ma non penso che questo cambierà molte cose. Ci sarà naturalmente una certa retorica, noi non vogliamo dimenticare gli operai e l'ambiente naturale, ma è solo retorica. Per la seconda domanda, io sono stato per caso in Corea del Sud all'inizio di Occupy. Nelle prime settimane stavo parlando ogni giorno per telefono, ricevendo messaggi da compagni dicendo: non ti preoccupare, Lorenzo, ci sono liberali, ci sono socialdemocrati, non è niente. Ma a partire di 2 o 3 settimane tutto ha cambiato e sono tornato subito per partecipare nella gran manifestazione del cosiddetto sciopero generale nella città di Oakland in ottobre-novembre 2011 e poi anche nella ultima dimostrazione in New York una settimana o 2 settimane dopo. E francamente ho l'impressione, e anche parlando con compagni un po' dappertutto negli Stati Uniti, che non si parlava della classe operaia in questo movimento. Un amico mio, di origine operaio, molto radicale, è stato in New York durante tutto il movimento e mi ha detto che per esempio c'erano compagni che avevano intentato di interessare giovani neri e latinoamericani per venire al parco dove c'era il centro del movimento, e quando questi giovani neri latinoamericani sono arrivati hanno guardato 15 minuti e hanno detto: questo non è nostro movimento. Era un movimento a livello nazionale, soprattutto all'eccezione importante di Oakland nel stato di California, di bianchi della classe media. E era importante, era il primo movimento nelle strade da non so quanti anni. È chiaro che certi militanti di questo movimento sono più tardi hanno cominciato a sviluppare una prospettiva più grande e più, diciamo, proletaria. Ma in questo momento, e ancora negli Stati Uniti, quando si comincia a parlare della classe operaia, è un po' come parlare come un dinosauro. Di un dinosauro. Se capisco bene, non è così diverso qua. Sì. Sono le mie risposte. Scusa ancora una volta il mio italiano un po' problematico. Beh, in realtà parli molto bene, diciamo, quindi anzi ti ringraziamo. Non è nessun problema, altro che problematico. Ma forse manca un pezzettino, non so se che forse ci interessava sviluppare anche rispetto a sui due temi, diciamo, ma più forse sul TTP, sul trattato di libero commercio, per aggiungere insomma alla domanda che ti aveva fatto Giorgio al telefono. Noi qui, esattamente come dicevi tu, non abbiamo notizia di quali sono i punti esatti dell'accordo, ma avendo conosciuto quelli precedenti, possiamo immaginare quali sono gli elementi. Di solito si parla di standard di qualità, eccetera, eccetera. Sì. La seconda parte della domanda di Giorgio chiedeva appunto qual è la percezione che avete, che ha l'opinione pubblica di questo, e se è dibattuto anche a livello, diciamo, della base dell'opinione pubblica, o se invece è un tema che non ha interesse in questa fase. Non è per caso che le discussioni prima della conclusione di questo trattato sono completamente segrete, perché c'è una forte opposizione nella opinione pubblica e soprattutto nella classe operaia contro questo trattato. Negli anni 93-94 con Clinton c'era una forte reazione della parte soprattutto degli operai organizzati in sindacati, e Clinton ha perso la sua maggioranza nel congresso nelle elezioni nel 94 e così via finora. Non si permette un vero dibattito pubblico su questa questione, e per questo precisamente, che per tornare a quello che ho detto all'inizio, questo movimento di destra e di sinistra populista sono una reazione diretta a questo tipo di separazione tra la politica ufficiale formale e la vita quotidiana della gran maggioranza della popolazione. Io farei una pausa anche per riposare la voce e poi torniamo in perché abbiamo tutti mal di gola, penso, questa mattina, quindi fills the sky every sun that suffers.